È solo un altro giorno davanti allo specchio. Schizzo in questa giungla e mi mimetizzo tipo insetto secco. Ho sangue freddo, stare fresco con l'inferno attorno. Ma io non esco dalla mia tana e porca puttana non ci dormo. Puoi mettere il tuo contratto milionario sul mio tavolo, ma devo avere tatto per firmarlo dopo che ho fatto il patto col diavolo. Quindi tacco tuo cazzo come Tazana Liana. So che mi è bro persone serie, no alle fare in Guatemala. Vorrei scappare via mare, fisso al suolo, legato a doppio filo a questa cazzo di vita in stato di... Scorrono avanti giorni al rintocco delle lancette, distanze anni luce, meta, giornate perfette. Le lutte ai bassi fondi, medesima storia. La sete di potere, l'odora che aspira alla gloria. Risposta impegnarsi, ricercare Qatar. Sento il profumo dell'oro che sta un minuto a disfarsi. La vivi coi selvaggi, gli omaggi dei re magi da spartire coi randaggi. Ottimi acquirenti per te alle ore 20. Se il prezzo della vita è coperto da tangenti, comprendi che è uno sfondo a cui non credi. Se è il resto del mondo ha le Hogan sotto i piedi, io resto fuori al chiaro di luna col branco. Balliamo sul mondo e faremo un fandango. Rollo grosso sto foro dopo d'orogo, foro lo zono, drogo, volo, sogno l'oro, non l'odoro. Scorro col sol solo, col polso flow sfogo, focoso, pompo sto borgo non stop, non occorrono non molotov. Rompo sto mondo troppo monotono, fatto lo stronzo promosso prodotto. Onoro sto trono sonoro, porto combo contro Condor. So, sto pronto, corro d'oloro colo. Chiodi di odio, cingono.